c'è questo problema enorme, appunto, della censura. Gran parte dei film di Ferreri sono vietati ai minori di 18 anni. La Grande Bouffe, la grande abbuffata, che è stato un successo enorme da tutti i punti di vista. Mi viene da ridere, perché tu pensi che nel paese dei ladri come il nostro, perché il nostro era un paese dei ladri, notoriamente, saltano fuori, mi hanno portato in tribunale coi carabinieri per la Peregina. La Peregina, coi carabinieri. E un'altra volta per la grande abbuffata col corpo del reato, che è bello, perché sempre da ridere mi dice: dov'è il corpo del reato? Il corpo del reato è il FIMA, hai capito? È il corpo del reato. E mi hanno portato in galera, in un mondo... Sembra di parlare di epoche distanti, lontanissime dalla nostra realtà. Vedi, oggi le mamme e papà si preoccupano per le oscenità che si vedono in internet, per la cattiva maestra televisione, tutte cose reali, ma che loro stessi hanno difficoltà a gestire, ne sentono l'angoscia, ne sentono la paura, non si sentono in un atteggiamento di ironica superiorità rispetto a certi modelli, e quindi vorrebbero la censura. Ma in realtà parliamo di Ferreri, parliamo della grande abbuffata, la Grande Bouffe, un film censurabile. Oggi lo potrei far vedere, non lo so, a un bambino dentro la culla. Sì, però è violento quello che arriva alla testa, il pensiero di Ferreri, giustamente violento. Sì, poi è un suicidio collettivo, in realtà è un suicidio collettivo quel film. Quindi... Eticamente violento, lui parla appunto di un schopenhaueriamente del il sospiro della specie, l'accoppiamento come qualcosa di fisiologico, di l'amore, quando uno dice amore a un altro, insomma sta solo sospirando la specie che vuole continuare a riprodursi. E poi attentava alla morale comune, anche nell'Ape Regina racconta di questa Marina Vradì, trionfante, mistress, paciosa, insomma,